La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Oggi mi fanno fare gli straordinari, cominciamo prima, va bene, tanto abbiamo tantissime cose da raccontare oggi, bentornati a lunedì, cosa avete fatto nel weekend, siete partiti? No, non siete partiti perché parcheggi non ce ne sono, tangenziale, affollata, ma questi che vediamo nei TG, che affollano i caselli, sono figuranti, chi sono queste macchine, dove vanno, sono vecchi filmati, non lo capirò mai. Oggi parleremo di un tema che mi sta molto caro, ciò che odiamo dell'estate. Io odio l'estate in generale, questo vabbè si sa, però ammettendo che qualcosa mi piaccia, ci sono delle cose che mi piacciono meno e cose che mi piacciono ancora meno e cose che detesto. E insomma, non sono l'unico però a odiare l'estate. Odio l'estate. Il sole che ogni giorno. Vabbè, è una scelta quasi obbligata mettere questo pezzo, però ho scelto Sergio Camerieri, almeno abbiamo variato un po'. Odio l'estate, io vi dirò per cosa. E voi? Per cosa odiate l'estate? 800 24 00 24. Qual è quella cosa che vi dà più fastidio d'estate? Ma dovete anche motivarmela, non potete dire soltanto il sole. No, il sole perché? Faccio un esempio un po' banale. Io odio talmente tante cose d'estate che ne ho scelte 10. Ora, so già che mi direte, ma non sopporti nulla. No, non sopporto nulla. Per me la democrazia non esiste, perché non riesco a pensare, vivi e lascia vivere. Perché no? Perché gli altri non lasciano vivere me, soprattutto d'estate. E allora vi ho creato una particolare classifica, una particolare hit parade. E naturalmente, come in tutte le classifiche, si comincia dal fondo. Cominciamo dal numero 10. Al numero 10 delle cose che Tommaso Labranca, che sono io, detesta di più d'estate, la musica latinoamericana e in particolare perché è a Milano il festival latinoamericano. Non c'è un festival più affollato, sudato, olezzante di fritti, imbottito di questi suoni che io non sopporto, tutti uguali, non distingo un pezzo latinoamericano dall'altro e poi questi signori un po' obesi, che milanesi o comunque della zona, che vanno lì a ballare il latinoamericano. Ora, finché uno sudamericano o ecuadoregno sa perfettamente ballare, ma quando uno è di quarto giaro, assolutamente no. Al numero 9, l'aria condizionata. Ebbene sì, so che a tutti piace, a me no. Quando vado in un negozio e c'è l'aria condizionata a palla e magari entro ed è fuori ci sono 40 gradi, so già che mi ammalerò. Adesso poi c'è l'aria condizionata anche sulla metropolitana e anche lì ci si ammala. E vabbè. Al numero 8, i cioccolatini allo champagne, che in realtà mi piacciono, però d'estate non li mettono più in commercio. Vai a comprarli e dicono, no, guardi, fino a settembre non ci sono più, sono troppo delicati. E io come faccio fino a settembre senza cioccolatini allo champagne? Al 7, i Bermuda. Sì, i Bermuda. Da marzo in poi non trovi più un paio di pantaloni normali nei negozi, soltanto questi pantaloni al ginocchio, per di più in tinte improponibili, con queste fantasie scozzesi e poi questi laccetti che pendono, che fanno un po', non so, ballerino di tarantella, non lo so. Io per vestirmi d'estate devo andare in quei negozi di abbigliamento per ecclesiastici, perché lì finalmente trovo dei pantaloni normali. E al numero 5... Eh sì, ho saltato il 6, è vero, perché mi sono tanto preso dai Bermuda. Vabbè, ve lo dico adesso il 6. È l'abbronzatura, ma non l'abbronzatura integrale, quella che capita a me, perché andando in giro solo con le magliette a mezza manica, mi ritrovo le braccia divise in bicolore praticamente. Fino a un certo punto sono colorate e fino all'altra, e dall'altra parte poi sono pallide come sono io in tutto il resto dell'anno. E questa è una cosa che mi manda in bestia. Vado in giro con le maniche lunghe anche d'estate, oggi le ho per esempio, pur di non abbronzarmi. Mi si abbronzano le mani a quel punto e il problema sussiste. E veniamo al 5, lo state ascoltando, Bob Sinclair. Ogni anno quest'uomo propone un pezzo che fa impazzire i villaggi vacanza, ma che fa impazzire anche me perché non lo sopporto. Lui passa tutto l'anno in palestra, poi mezzo nudo fa la pubblicità delle mutande, non so se l'avete visto, ecco, quindi non è il tempo per suonare e comporre qualcosa di buono. 10 giorni prima dell'estate si mette al computer, prende un campioncino, una batteria, umpa umpa zumpa zumpa e crea questi simpatici pezzi. Bob Sinclair. Al numero 4, la domanda che tanto detesto. Vacanze? Detta così, vacanze, colon, perché te lo chiedono già da marzo per sapere dove vai. Se dici non vado via ti guardano in maniera strana. Se dici vado a Cattolica ti ridono dietro. Insomma, si aspettano sempre una località strana, una località come questa, quella che c'è al numero 3. con rami senza rami. Al numero 3 delle cose che detesto d'estate, la pizzica. La pizzica. Più che la pizzica in sé, le signorine, quelle che in città, Milano, Roma, nelle città girano con il tacco 13 anche di giorno, vanno a lavorare vestite come se andassero a una cerimonia. Se tu dici, vabbè, vieni con me in pausa pranzo, andiamo giù al bar, ti guardano male, no, è troppo kitsch, andiamo in mensa, ma andiamo per l'idea, no, no, non posso mangiare quelle cose, e poi pagano uno sproposito 15 giorni ogni estate per vivere di pomodori secchi in una masseria di cartone finta, ma il problema è che quando tornano, poi per un mese girano con i gonnelloni scalze e ti fanno ascoltare questa musica costantemente, diventano improvvisamente delle salentine, poi dopo un po' comunque riprendono il loro tacco 13 e tornano quasi normale. Al numero 2 ne parliamo a settembre. Se voi avete, come capita a me ogni tanto, un'idea che so per un programma televisivo, andate a parlarne a giugno, fine maggio con i responsabili. Se è interessante, ne parliamo a settembre. Perché non possiamo parlarne a luglio? Cosa succede a luglio? No, c'è questo grande blocco del lavoro da maggio fino a fine agosto. Quando poi tornate a settembre, no, è troppo tardi, il palinsesto è pieno, mi spiace. Oppure non ci sono più i soldi. Vabbè. Vi chiederete cosa c'è al numero 1, ve ne ho dette di tutti i colori, cose terrificanti, ma penso che una cosa come quella che c'è al numero 1 non può infastidire di più. Ascoltiamola. Al numero 1, i matrimoni d'estate. Mi sono fatto due matrimoni di seguito per due estati e sono esperienze tragiche. Il secondo era addirittura un matrimonio in una chiesa evangelica, che praticamente è un capannone. La cerimonia è durata 3 ore e mezzo, c'erano 60 gradi, gente che sveniva, e tu devi stare lì in giacca, cravatta, cappotti, di qualunque cosa, non puoi spogliarti, poi ti mandano fuori, devi aspettare la sposa che torni dalle foto sotto un sole cocente, dopodiché un intero pomeriggio magari, che so, in una villa, ma non dentro, fuori, nel cortile che è più bello, c'è più aria, 90 gradi. Io non auguro a nessuno di essere invitato a un matrimonio d'estate, in realtà non lo auguro a nessuno di essere invitati a un matrimonio, punto, in generale. Questa era la mia classifica. E la vostra qual è? Quali sono le cose che odiate di più d'estate? 800 24 00 24. Però sicuramente il fastidio principale dell'estate sono le zanzare. Metodo a basso costo per catturare le zanzare. Le zanzare, basta mettere un po' di olio dentro una bacinella nera e le zanzare vanno a finirci tutti dentro, che si attaccano. Miliardi di zanzare in questa bacinella. Non servono prodotti per scacciare via le zanzare, che hanno un costo notevole, ma con una bacinella, con una semplice bacinella in 20 metri. Ma il costo notevole è delle zanzare. Quanto costa una zanzara sul mercato? Dopo, magari quando c'è la borsa, sentiremo la quotazione della zanzara. Le zanzare purtroppo d'estate ci sono, ultimamente ce ne sono sempre di più, c'è anche la zanzara tigre, ma c'è un metodo naturale adesso per cacciarle via. Ho al telefono Chiara Crotti. Buongiorno Chiara. Ciao. Ciao, allora, Chiara Crotti è faunista del Parco delle Orobie Bergamasche e con Chiara Crotti devo parlare, anzi voglio parlare, di un metodo naturale per contrastare la zanzara, che non è più il flit come tanti anni fa o lo zampirone, ma è il pipistrello, in particolare la bat box. Che cos'è la bat box, Chiara? Allora, la bat box è una casetta, un diciamo un possibile rifugio per i pipistrelli. Quindi diciamo sulla falsa riga di una casetta per gli uccellini. I pipistrelli entrano, stanno lì diciamo durante il giorno in uno stato di torpore, quindi si riposano, e di notte escono per cacciare, quindi cacciano vari insetti, comprese le zanzare. Quindi è un possibile metodo naturale che può aiutare logicamente le persone interessate a far fronte a questo problema. Ma è anche un non aiuto... è sicuramente risolutivo, certo, come problema, però potrebbe aiuta anche i pipistrelli, perché comunque tu offri una casetta al pipistrello, spesso sono un po' orfani in casa. Sì, sì, sicuramente, anzi come iniziativa diciamo che è più un rimedio per la conservazione diciamo dei pipistrelli più che un rimedio anti zanzare, nel senso che i pipistrelli purtroppo stanno diminuendo per tutta una serie di concause, compreso anche il fatto di avere meno siti di rifugio, quindi con una bat box si aumentano dei possibili rifugi, delle possibili chiamiamole tane, anche se non è proprio un termine corretto. Senti Chiara, tu conosci bene i pipistrelli? Abbastanza. Ecco, perché ci sono delle leggende sui pipistrelli, per esempio mangiano migliaia e migliaia di insetti ogni notte, è vero? Ma allora, dipende dalla specie. Allora, sicuramente ne possono mangiare migliaia. Dipende un po' da una serie di cause, come può essere il tempo meteorologico e quindi la quantità di insetti che sono presenti ogni notte. È vero, possono mangiarne a migliaia, ecco, non si parla di 30-40 mila, si parla da, diciamo, al massimo una 10 mila. Beh, insomma, non sono pochi comunque 10 mila insetti a notte. Senti, poi c'è un'altra cosa. Beh, certo, c'è un'altra cosa che si dice sempre, che prima mi metteva paura, adesso da un po' di tempo non mi mette più paura. È vero che i pipistrelli si attaccano ai capelli? Assolutamente no. Ah, eccolo. È una leggenda, un mito da sfatare, perché i pipistrelli si muovono e comunicano con l'ecolocalizzazione, quindi diciamo come un sonar, quindi emettono delle onde e ascoltano che cosa torna indietro, diciamo. Quindi riescono a proprio percepire, diciamo, lo spessore di un capello, di una zanzara, e quindi non entreranno mai nei capelli, non arriveranno a un uomo. Probabilmente questo mito, questa falsa leggenda è un po' dovuta al volo che hanno questi pipistrelli, quindi si pensa che entrino nei capelli, che arrivino addosso, ma invece in realtà non è così. Negli ultimi anni, Chiara, va, diciamo, anche di moda fare queste serate, ne ho seguite alcune, in cui si parla appunto della bat box, che cos'è, come funziona. Voi quante ne avete vendute e quali sono stati i risultati? Allora, noi per quest'anno, allora in 2 mesi, come Parco delle Robe Bergamasche ne abbiamo vendute circa 200. Poi abbiamo consegnato il progetto al Consorzio Forestale Presolana, che è stato il nostro costruttore, e anche loro ne hanno vendute parecchie. Sinceramente, quindi non so quantificare il numero preciso. Come risultati ancora siamo scarsi, perché il primo anno è difficile che i pipistrelli entrino nella bat box. Solitamente più anni passano e più si vedono i risultati. Quindi si inizia a vedere qualche risultato, diciamo, dal secondo o terzo anno. Quindi, ecco, per quest'anno non ci sono grossi risultati. Ecco, vediamo, stiamo a vedere tra 1 o 2 anni. Comunque è già importante che se ne parli, che si usino queste bat box per i poveri pipistrelli. Sì. Grazie, Chiara. Niente, figurati. Grazie tante. Ciao. Le zanzare comunque non sono l'unico fastidio, perché le zanzare comunque ci sono da sempre. Ci sono dei fastidi stagionali. Nel 2006 c'era questo. Scommetto che anche voi avete avuto gli incubi, sognavate orde di tifosi che facevano po, respirandosi a queste terrificanti canzoni dei White Stripes, che penso non esistano più. Li abbiamo debellati con dei pipistrelli di quelli però tipo vampiro. Sono messi lì sulla carotide e hanno succhiato il sangue, e i White Stripes sono scomparsi. Invece non sono scomparsi gli ascoltatori, che hanno chiamato già all'800 24 00 24 per dirmi cosa odiano d'estate. Proviamo con Claudia. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Claudia, allora puoi dire tutto tranne odio la bella estate. Sì, a me dell'estate che non piace proprio sono le sagre. Le sagre paesane? Le sagre paesane, io abito in una zona nell'Alessandrino e vi assicuro che ci sono sagre per tutti i gusti, dall'aglio al sedano, al salamino di cavallo, al salamino di asino, qualsiasi tipo di sagre. Oltretutto vai in queste sagre convinto di partecipare a una festa. Invece? Ma la festa è un po' per il tuo portafoglio, nel senso che alla fine spendi forse di più. Ma lì devi anche essere tu a trattenerti, capisci? No, allora non comprerò troppi salamini d'asino, perché mi spiace anche per l'asino. No, a me sì, cioè quando vedo salame d'asino piango, dico: ma povero asino, cosa ha fatto di male per finire in un salame? Ecco, ma il sedano, la sagra del sedano? Questa mia nuova. Cosa c'è? Vendono il sedano? Fanno qualsiasi cosa col sedano, quindi la marmellata, qualsiasi piatto, eccetera, tutto basato sul sedano. Vabbè, ci hai aperto un mondo. Prima o poi dedicherò una puntata alle sagre a questo punto, perché mi ha incuriosito. Vedrai che ce n'è per tutti i gusti. Grazie Claudia. Però, grazie a te. Però no, aspetta un attimo, l'ultima domanda. Ma se le detesti, perché ci vai? No, ma non è che ci vado, le trovi? Perché abito nella zona dove ce ne sono tantissime. Io passo per le strade e vedo solo manifesti con la sagra di... è già una buona cosa che ci sia il manifesto, così puoi evitarle. Grazie Claudia. Questo è vero, grazie a ciao, te per il ciao, grazie, ciao. Annalisa, Annalisa da Mantova. Sì, buonasera. Ciao, allora, motivi per cui odio l'estate. Mi associo al decalogo della top 10 della negatività dell'estate, che lei ha elencato in maniera anche così ironica. Lei chi? Lei tu. Ah, lei io, sì. Però volevo dire che cambierei soltanto qualche addendo. Quale? Ecco, io al primo e al secondo posto metterei della negatività in senso negativo. L'Armageddon che da maggio a settembre non si può fare perché siamo d'estate. E dove vai in vacanza? L'Armageddon cos'è, scusa? Cioè la fine del mondo, succede la fine del mondo. Ma dalla, no. Ecco, dalla fine di giugno, no? Fine, mi pensavo, pare che tu, lei, non so mai se dire tu o lei. Tu, ecco. Diciamo tu per facilitare. Se tu hai detto, mi pare giustamente e correttamente, da fine maggio addirittura alla sì. fine di settembre, in Italia sembra che si debba fermare tutto. È vero, è vero. E la stessa cosa questa succede poi... Questa è una cosa che mi dà una grande depressione, perché poi mi dà anche il senso del motivo per cui il nostro paese è spesso così in ritardo in tanti punti di vista. E poi succede anche dicembre. Che poi succede anche a dicembre, per cui a dicembre ho fatto un attento studio. Dal 5 di dicembre al 12 gennaio, perché di solito l'Epifania non cade mai di domenica, salvo rari casi, ma cade, non so, di giovedì o di venerdì. Allora si va fino alla domenica, lunedì che è l'11 o il 12 gennaio la vita ricomincia in Italia. Ma la tua lettura preferita è Frate Indovino, il calendario, perché no, sai c'è tutte le date. No, le mie letture preferite sono altre. Dai, scherzavo. Grazie comunque Annalisa, siamo Prego. Uniti in queste cose che detestiamo dell'estate. Ma c'è Giovanni da Genova. Pronto Giovanni? Sì, ciao. Volevo dirti che io odio la confusione. Io ho una casetta giù in Calabria, che in un paesino, che non faccio pubblicità, e in inverno è bellissimo perché non c'è nessuno, si vive di una bellissima. In estate il tragitto che ci mettono normalmente due minuti, mi ci vogliono delle ore a farlo. Perché, perché è troppo pieno, c'è troppa gente. Esatto, e poi la seconda cosa sono, fra virgolette, io li chiamo imbecilli per non darli altri titoli, quelli che ti spruzzano l'acqua, che ti camminano sopra sulla schiena e sulle spiagge, no? E senza chiederti scuse, ecco, tutta quella gente lì. Ma quelli come, che ignorano come fanno a camminarti sulla schiena? Cioè tu fai le sabbiature e questi camminano e non ti vedono, come fanno a camminarti sulla schiena? Sì, esatto, si rincorrono, camminano in mezzo agli ombrelloni e per non scappare magari dalla pistola d'acqua, non vedere il genere, ti camminano sopra. Ecco, guarda, Giovanni, io ti ringrazio perché hai veramente corroborato la mia tesi, non bisogna andare al mare, io non ci vado anche per questo motivo. Prima, quando l'ascoltatrice parlava dell'Armageddon, io pensavo fosse una cosa di quelli sparacqua con cui si fanno le battaglie, invece no, intendeva proprio la fine del mondo. Ma per me la fine del mondo sarebbe andare in un villaggio turistico. Signori, attenzione, ricapitolando, la vostra giornata è organizzata in questo modo. Ore 7, prima colazione. Ore 8, lezione di ginnastica yoga. Ore 9, tennis. Ore 10, vela. Ore 11, pesca subacquea. Ore 12, sci nautico. Ore 13, gita in barca con colazione. Ore 14, ping pong. Ore 15, pallavolo. Ore 16, torneo di scala 40. Ore 18, equitazione. Ore 20, cena. Ore 22, festa in costume. Ore 24, discoteca. Ore 1, spaghettata. Ore 2, bagno in piscina. Ore 3, barbecue sulla spiaggia. Ore 4, feste, scherzi, serenate, canti, balli. Ore 5, tempo libero. Ma qui quando si dorme? Non si dorme mai, dottor Maramotti. Fa parte del servizio. La faccia del servizio. Servizio funebre. Servizio funebre, concludeva Pippo Franco. Era veramente l'idea di quello che è il villaggio turistico. A me fa paura. L'idea soltanto di entrarci. Vabbè, fa niente. Oggi parliamo di fastidi estivi, che io ho definito zanzare, perché ci sono le zanzare reali e poi queste zanzare che sono virtuali. E quindi noi dovremmo accendere degli zampironi virtuali. Mi sbaglio anche l'articolo, degli zampironi virtuali per poterli cacciare. Ho scoperto che si chiamano zampironi perché sono stati inventati da un signore che si chiamava Zampironi. Pensa un po' che roba. Scommetto che non lo sapeva assolutamente nessuno. 800 24 00 24 per raccontarmi i vostri fastidi estivi. E c'è già Marco d'Arezzo. Pronto Marco? Sì, buonasera. Buonasera. A lei e a tutti gli ascoltatori. Ringraziamo tutti insieme. Qual è il suo fastidio estivo? Estivo, le vacanze. Le vacanze? I vacanzieri. E i vacanzieri. Fratello, avanti, spiegami come mai odi le vacanze anche tu. Odio le vacanze perché faccio un'attività che mi diverte. Sì. Produco vino, quindi sto da Dio. Sì. E odio vedere i ciabattoni in pantaloncini corti e quelle orribili canottiere con persone che spesso sarebbe bene che si mettessero il burka invece che andare in giro in certe condizioni. Guarda, avremo presto una puntata dedicata proprio all'abbigliamento estivo, quindi preparati. Con gente che puzza come una stalla, una cosa indereconda. Io non pretendo chissà che, per l'amor di Dio, però copriamoci, anche io non ho un fisico. Un deodorante. Appunto, almeno non ho un fisico perfetto e quindi sto con i pantaloni lunghi e camicia con le maniche lunghe. Guarda, anch'io mi comporto così e poi metto anche sempre due Arbor Magic sotto le ascelle, così ho sempre risolto il problema. Perfetto. Calze e scarpe, con l'infradito, con i piedi sporchi, scarpe, cioè è una cosa veramente orribile. No, infatti è vero, Marco ha ragione. Cioè, l'infradito in città sono una delle cose più terribili che vadano di moda al momento. Tutti sporchi, una cosa orribile. Un minimo di decenza, per favore. Si torni a un... ognuno può fare quel che gli pare, sinceramente mi sembra un po' esagerato. Torniamo alla decenza. Guarda, mi associo e sottoscrivo. E alle belle cose. Bravo. Anche perché poi in estate vanno in giro tutti mezzi svestiti, no? Sì. Quindi uno magari capita alla bella cosa, si distrae e fa l'incidente. Ah, perché ti è successo anche questo? No, mi successe, quando potevo fare, adesso no, adesso sto più attento, insomma, anche perché sennò mi arriva lo scoppolone, ma insomma, però è successo anche questo. Quindi, per favore, cerchiamo di fare le cose fatte in maniera decente, copriamoci, dai. Ecco, quindi il nostro grido è copriamoci, a meno che non valga la pena di scoprirsi. Grazie a Marco, grazie. Vabbè, non sono l'unico quindi a pensarla così, mi fa piacere, perché dicono sempre, hai dei pensieri terrificanti, non lasci fare agli altri quello che vorrebbero fare, ma io ve lo lascio fare, però se non lo fate è meglio. Estate ha il suo dramma. Il dramma di quest'estate si chiama Danza Kuduro, che sarebbe questa canzoncina che sentite, indistinguibile da tutte le altre, perché non lo so, sarà che forse mi sono abituato troppo bene ad ascoltare altre cose. Vabbè, comunque pare che si divertano a ballare questa cosa e forse sì. Non voglio commentare, voglio sentire Fulvio che ha chiamato l'800240024 e mi parla di... Ciao Fulvio! Ciao, sento malissimo. Comunque, dicevo, tra i fastidi dell'estate c'è sicuramente anche i pipistrelli. Come i pipistrelli? Prima ci consigliava addirittura di allevarli in giardino, ma non so se si è mai trovata nel panico quando un pipistrello ti entra in casa. È un finimondo, bambini che urlano, mamme che scappano, caccia grossa. Ma non bisogna, non bisogna aver paura dei pipistrelli, non fanno niente. È scomparso, è stato rapito da un enorme pipistrello. Fulvio, non ti sento più, ci sei? Fulvio? Non c'è, niente, è scomparso insieme ai pipistrelli. Ma no, i pipistrelli fanno benissimo, perché dovrebbero far male? Sono degli animali che aiutano, mangiano quintali di insetti, che abbiamo sentito prima cosa diceva Chiara. Bisogna avere una casetta, metterla fuori nel giardino, loro vanno lì dentro e insomma... Io non la terrei mai perché i pipistrelli mi fanno un po' senso, dico la verità, ma qui devo far finta che i pipistrelli siano buoni e simpatici. Vabbè, c'è un anno che dà molto molto fastidio, o almeno lo ha dato, è stato il 2000. Per questo oggi vi propongo la Hit Parade del 2000, perché ve lo dico dopo, prima ascoltatela. Hit Parade! Numero 10, Me cago e nell'amor, Tonino Carotone. Numero 9, Parano Verte Masse, Mosca Zezè. Numero 8, I Feel So Good, Sonic. Numero 7, The Real Slim Shady, Eminem. Numero 6, Take a Look Around, Limp Bizkit. Numero 5, Breathless, Kors. Numero 4, Carmen Quisi, Maxi Menskin. Numero 3, It's My Life, Bon Jovi. Numero 2, Freestyler, Bonfunk MC. Numero 1, Vamos a Bailar, Paola e Chiara. Ho voluto dire addio, carità, Paolo e Chiara non sono assolutamente fastidiose, sono le mie preferite, le abbiamo avute anche qui ospiti qualche giorno fa. Era il 2000 che era un anno fastidioso, perché ce ne hanno parlato per tanti decenni, per tanti anni, il 2000, poi è arrivato, non è successo nulla, è stato un anno come gli altri, quindi l'ho scelto perché ha dato fastidio per tanto tempo, per fortuna è passato da ormai 11 anni. C'è ancora una telefonata, c'è Mauro. Mauro. Ciao. Ciao. Ciao, io telefono da Rimini, sì. Una città vocata chiaramente al turismo, il cosiddetto turismo di massa, quindi non posso che odiare fortemente il turista. Ah. Cioè, il turista tipo io penso sia una razza da estinguere in qualche modo. Tra l'altro io sono un viaggiatore, a me piace viaggiare. Qui siamo a livelli da Norvegia, stiamo attenti per favore. Sì, no, adesso io per carità, e tra l'altro ho lavorato nel settore del turismo perché cioè, come buon riminese... Ho lavorato in bar, ristoranti, spiagge, eccetera. Però il turismo, il turista, proprio il turista, quello con l'asciugamano sotto braccio, è una cosa, è una involuzione dell'essere umano veramente tediosa. Però Mauro, rende la vita impossibile. Sì, Mauro, però devi ammettere anche che se non ci fosse il turista, a Rimini cosa facevate? Cioè, che fate? Caccia, pesca, raccolta di bacche, radici, insomma. Raccolta di bacche. Questa mi ricorda il Lido di Venezia. È presente il Lido di Venezia? Certo, il Lido certo. Di Venezia viene messo sotto i riflettori mondiali solo una volta all'anno, quando c'è la mostra del cinema. Loro sì, odiano sì. Registi, giornalisti. Io sono andato una volta a lavorarci alla mostra del cinema, mi hanno trattato malissimo e loro hanno detto: ma chiudetela e vivete di gran seole, così almeno siete felici. Quindi esatto, dovresti esatto. Ma tu odi più i turisti italiani o quelli stranieri? Dunque, in linea di massima, adesso io non è che li odi i turisti, semplicemente li tollero, nel senso che chiaramente non posso anch'io nutrire un vero odio viscerale, comunque trattasi di genere umano. La cosa, diciamo che io odio il turista in automobile in particolare, perché chiaramente non sa dove andare, vaga muovendo la testa alternativamente a sinistra a destra cercando un posto per parcheggiare in una città che parcheggi non ha, quindi è inutile, intanto vorrei comunicarle alla massa, non cercate il parcheggio a Rimini perché non c'è. Non ci sono parcheggi. Mauro, non ci sono. Mauro, dimmi una cosa. In continuazione. Mauro, dimmi una cosa, ma tu dove vai in vacanza? Io scappo, di solito appunto scappo a vivere di bacche radici in montagna, oppure in barca, oppure col camper, insomma in posti che mi consentano i contatti. Di vivere lontano dai turisti. Sì, lontano dai turisti, cioè, ma adesso per carità, intendo tra l'altro tutti i generi musicali di cui si è parlato fino adesso sono roboanti a sì. Rimini e vengono sparati fino alle 5 del mattino. Immagino con orrore, però... Esatto. Ah, quindi tu dici anche odi questi generi musicali, pensavo ci fosse una conclusione. No, dico, tra l'altro appunto cioè, ci sono queste aggravanti che sì. sono alimentate come se il turista, io poi sarei curioso di sapere perché ho lavorato anche per discoteche, no? Ed è curioso, no, vedere anche il genere persona che vaga per queste discoteche col bicchiere in mano. Guarda, ne parleremo presto perché farò una puntata sul ballo. Avrà l'epicentro proprio in quella zona. Grazie intanto Mauro, devo chiudere di corsa perché abbiamo la borsa. La bella estate. A volte ritornano, siamo tornati noi, ma non solo, a volte ritornano anche i fastidi. Ora lo dico, ci eravamo dimenticati della lambada. Erano passati 20 anni, fa niente, c'è stata la prescrizione addirittura per chi ha lanciato la lambada 20 anni fa. Perché Jennifer Lopez deve tornare dopo un periodo di silenzio riproponendo la lambada in questa versione Umpa Umpa? Jennifer, sei stata in silenzio tanti anni, ma potevi fare un pezzo migliore? No, ha riproposto la lambada. Questo è uno dei tipici fastidi estivi, il ballo che poi diventa il tormentone dell'estate. Ma non è il solo, è venuto in mente che c'è anche un altro fastidio. Forse c'era un tempo, adesso non lo so, poi chiederò lumi alla nostra ospite. L'esame di riparazione. Non si veniva bocciati, si veniva rimandati a settembre e quindi l'estate era rovinata per voi dalle lezioni di ripetizione, ma non per i professori che davano poi le lezioni di ripetizione estive. C'era tutto un piccolo mercato su questa cosa. Fu fatto persino un film che vinse, penso, anche qualche Oscar, Pierino, l'esame di ripetizione, non lo so che titolo avesse, era Pierino. Spero che vi rendiate conto che questi esami sono esami di riparazione e io sono uno che boccia. Va bene. Qui Mandraghe, aspetto istruzioni, passo. Allora, Garibaldi si è scritto 2B, vero? Vai, no, procedi. È stato uno dei più grandi eroi è stato della uno nostra dei più storia. Grandi della nostra storia. E perciò è ricercato in tutto il mondo? Tutto il mondo per il... Ah, no! Date la schiarita a voce, che sento un po' disturbato. Stupefacenti. È un criminale pericoloso che non bisogna lasciarsi sfuggire. Il suo amore per Andrei avanti fino a stasera ad ascoltare questa perla. Alvaro Vitali, quanto ci manca il tuo umorismo raffinato, quasi di matrice ebraica. Avete presente quei comici ebraici americani che fanno tanto ridere gli intellettuali? Ecco, Alvaro Vitali aveva anticipato anche un'abitudine, quella di comunicare con l'esterno durante gli esami tramite smartphone, cellulari e cose varie. Lui comunicava col walkie-talkie col nonno, poi si intrometteva la polizia. E il tema su Garibaldi, guarda caso, ancora una volta legato all'attualità in quest'anno di 150 centenario, il tema su Garibaldi diventava un delirio. Era naturalmente una burletta dell'esame di riparazione. Però adesso io chiedo alla professoressa Anna Finizia, che è stata professoressa di italiano e latino, una cosa. Buongiorno intanto, professoressa. Buongiorno a lei. Allora, professoressa, ma questi esami di riparazione ci sono ancora o no? Ma in realtà prevalgono i corsi di quello che si svolgono durante l'anno. E in effetti non si può tornare indietro. Gli esami di riparazione hanno avuto un collaudo lunghissimo, ma sì, hanno anche mostrato la loro inefficacia. Cioè non servivano? Non erano utili per il fatto che non si può recuperare da parte di un ragazzo in un mese e mezzo, quelle lacune, quei vuoti di sapere che durante il corso di 9 mesi non si è riusciti di fatto a colmare. Quindi quando i ragazzi tornavano da lei a settembre si ritrovava gli stessi somarelli lasciati molto praticamente spesso, a maggio? Molto spesso, sapevano meno addirittura di quando li avevamo lasciati a giugno. Comunque erano provati da un'esperienza frustrante e anche stancante, perché perfino i ragazzi che non avevano tratto profitto dall'anno scolastico comunque arrivavano stanchi alla fine dell'anno e nello stesso tempo si gravava in modo notevole sulle finanze della famiglia, perché in realtà poi queste lezioni che venivano, quando venivano affrontate private, avevano un costo. Dico quando, perché spesso negli ultimi tempi in cui questi esami di riparazione ci sono stati, anche questa consuetudine di mandare i propri figli da professori che potessero aiutarli a recuperare si era di fatto molto allentata, era diminuita, per cui i ragazzi facevano quel poco che potevano da soli in un clima comunque festaiolo, di vacanze. Insomma, quello che oggi è diventato l'Erasmus, che sembra un'occasione di studio all'estero, in realtà poi è una lunga vacanza prolungata. Non... Questo non lo so. Sì, lo so io per esperienze dirette. Ah, va bene, mi astengo dal valutare un'esperienza che so soltanto di spiccio, conosco. Ma è comunque, questa è un'esperienza diversa, quella dell'Erasmus, perché almeno potrebbe avere di positivo il mettere in contatto con altri giovani europei, i nostri ragazzi italiani, che tra l'altro devo dire, nonostante le valutazioni spesso negative che si danno alla nostra scuola, quando vanno poi nelle università straniere sono brillanti. Ah, ecco. Superato la prima difficoltà, che è costituita solo da un uso non distorto della lingua, poi sono brillantissimi negli esami. Hai detto niente, l'uso della lingua è la prima cosa da fare. Dico questo perché poi la nostra scuola, pur con tante ombre o tanti aspetti perfettibili, di fatto continua ad essere ancora formativa per i nostri ragazzi. Oh, ecco, quindi non lamentiamoci sempre della nostra scuola. No. Grazie professoressa Finizia, grazie. Sono tanto. Io che ringrazio a lei. Ma si figuri. Buona estate anche a lei, arrivederci. Allora, io non sono mai stato rimandato a settembre, non chiedetemelo neanche, invece mia sorella sì, tutti gli anni, e io dovevo aiutarla. Guarda un po' come mi rovinavo l'estate. Marco da Reggio Emilia, come se la rovina l'estate adesso invece? Pronto? Ciao, non me la sono mai rovinata con gli esami di riparazione. Bravo, comunque, bravo. Non che fossi secchione, ma questo lo dicono tutti, ad ogni modo ci ho tenuto ad avere almeno un minimo di tempo libero d'estate. Ecco, e come lo impieghi adesso il tempo libero? Vedo che c'è una cosa che ti dà molto fastidio. Sì, e beh, io sono tra l'altro della zona, una cosa che mi dà fastidio sono le innumerevoli repliche di Don Camillo. Ah. E quest'anno pare, tra l'altro, ci ne siamo salvati, pare che quest'anno Rete 4 abbia virato su Schwarzenegger, una cosa del genere. Devi tenere presente che io, abitando in zona, ho una televisione locale e quindi oltre a quelle su Rete 4 spesso mi devo subire anche quelle sulla televisione locale, che per carità sono bei film, belle trasmissioni, ma risalgono al 50-51. Poi soprattutto dopo averle viste 50-51 volte sono, tu dici basta, infatti. Sono 60 anni, ecco, sai, non vorrei offendere i concittadini, no, ma no, no, no. Ci siamo un po' sbagliati, un po' stancati. Ti capiamo benissimo, prima mi stava dicendo proprio il mio regista, Mauro, che lui detesta Alta Tensione, che questo ciclo di film che fa Mediaset tutte le estati con titoli improponibili, quindi c'è anche il fastidio televisivo. Grazie Marco, è vero. A te. Ciao, vogliamo ciao. Parlare tra l'altro, come? Scusa, di no, da dei filmati di Macario, non lo so, forse piacciono, forse guarda, riguarda dei trattamenti. Ti anticipo una cosa, ne parleremo proprio in settimana di televisione estiva. Va bene, sono per cui in attesa. Resta in attesa. Ciao, grazie. Ciao. Andrea da Como, sentiamo invece Andrea da Como che cos'ha. Intanto voglio dire anche all'800240024, se siete stati rimandati a settembre, che sono in 8 materie una sola volta, chiamatemi e fatemelo sapere. Andrea. Eccomi qua. Ciao. Ciao, sei stato rimandato. Come no? Io adesso colgo l'occasione per dire questa cosa perché è veramente una cosa assurda. Io non sono uno superstizioso per niente, a me le cose, la superstizione proprio neanche sì, mi tocca, però già che ci sono ve lo dico, cambio di orario tra matematica e ragioneria, terza superiore, ho sì, avuto la bella idea di aprire per due volte un ombrello nero in aula, per due volte in terza e in quarta ho preso quei due esami lì. Poi ti portavi anche il gatto nero a scuola, passavi sotto le scale, facevi di tutto. Guarda, è successo veramente quella cosa lì, io me la sono segnata, la racconto sempre perché è l'unica cosa nell'ambito della superstizione che mi è capitato, per il resto gatti neri non mi è mai successo niente. Ti sei rovinato l'estate così, è stato un fastidio quindi. E oggi rapidamente che cosa che ti dà fastidio? Allora, io sono uno di quelli che ha avuto la fortuna, chiamiamola così, di visitare quasi tutta l'Europa in tenda. Ah. Attualmente ho una famiglia con una bimba di 2 anni, quindi abbiamo cambiato la modalità, andiamo in giro con una caravan, una roulotte, tanto per capirci. Sì, perché la bimba intende, insomma. Sì, ci sta, però non è proprio il massimo. Insomma. E quindi cosa succede? Che tutte le volte che parto per queste sì, vacanze in Italia, in Europa che sia, unico atteggiamento che trovo, e purtroppo solo in Italia, è l'incacchiatura di tantissime persone che come me partono e sono più incacchiate di quando vanno a lavorare. E perché? Ma stai tranquillo. Ah, tu dici perché sono nervosi. Nervosissimi. Ma stai tranquillo, sei in vacanza. Non possiamo stare tranquilli. È impossibile stare tranquilli. Stiamo quasi per chiudere la trasmissione, devo passare agli altri ascoltatori. Grazie comunque Andrea. Vittorio da Pavia. Pronto Vittorio? Sì, pronto. Ciao, dai, dici subito che cos'è che tu detesti. No, niente, io devo semplicemente dire che oggi è l'estate tu culo. Ah beh, sono in due. A 18 gradi già sudo. Ah, ma c'è una cosa in particolare? Essendo in giro tutto il giorno per lavoro, sì? A vedere i turisti che giustamente se la prendono comoda ma intanciano il traffico, fanno arrabbiare in un modo terrificante. Quindi odi gli estati, odi i turisti, odi qualcos'altro? No. Le zanzare, perché ci vabbè, sì, le zanzare, sì, l'omellina, c'è la patria, cioè, le esportate come i cinesi esportano qualunque cosa, voi esportate zanzare. Esattamente, devo fare un allevamento di pipistrelli. Ecco, va bene, grazie Vittorio. Allora, una buona serata anche a te. Ciao. Ciao. Dai, c'è ancora tempo per Clementina da Bologna. Pronto, Clementina? Ciao Tommaso. Ciao Clementina. Scusa la voce, io odio l'estate tout court, ma dell'estate odio soprattutto gli imbecilli incoscienti che abbandonano il proprio cane e il proprio gatto riempendo i canili e i gattili. Io sono una, scusa la voce, sono no, figurati, un volontario animalista, sì, e so cosa vuol dire. Quindi la gente, li odio più di tutti, quelli che abbandonano i pochi animali. Ecco, vedi, questa è una cosa strana, Clementina, nel senso che tutti dicono no, non bisogna abbandonarli, odiamo, cioè, e poi gli animali vengono comunque abbandonati, nonostante adesso poi ci siano delle pene anche importanti, non è che certamente, ci si scherza. Certamente, ma non li abbandonano più in autostrada, perché ti vede la stradale, infatti, perché ti sta attenta la polizia. Adesso li abbandonano fuori dei canili, li abbandonano nelle strade secondarie, li abbandonano comunque. E questo è il gesto più spregevole che una persona possa fare. Ecco, guarda, ti ringrazio. Scusa. No, non preoccuparti, ti ringrazio per aver chiamato, così abbiamo concluso, dopo tante cose un po' leggerine, con una cosa importante. Quindi, tu odi che abbandonano gli animali. Mi associo, si associano tutti, si associa Viola Bottone, che è la mia redattrice, si associa naturalmente Mauro De Angelis, che detesta alta tensione. Ho detto De Angelis come la fermata della metropolitana, chiedo scusa, De Angelis senza la S. E noi ci sentiamo domani. Domani il tema sarà musicale. Faccio la gruppi, ovvero ho seguito una rockstar o una presunta tale per tutta l'estate. Cominciate a prepararvi e chiamatemi. Ci sentiamo domani, ciao!